Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. L'esito delle elezioni tedesche del 24 settembre scorso, che aprono la strada a quella che è stata definita la coalizione Giamaica, CDU, Liberali e Verdi, con la formazione xenofoba di destra, Alleanza per la Germania, che entra, come sappiamo, in Parlamento forte del 12,6% di consensi ottenuti, a scapito della stessa CDU e della SPD, che ha perso il 6% dei suffragi. Ma anche il ruolo che in Europa pare disposto a giocare il presidente francese Emmanuel Macron. Si tratta di due passaggi decisivi per cominciare a delineare gli sviluppi futuri dell'Unione Europea. Lavori in corso, si potrebbe dire, per l'Europa al termine di una serie di importanti tornate elettorali e in attesa dell'esito delle elezioni in Italia in programma per la prossima primavera. Ne discutiamo questa sera con il professor Alberto Quadrio Curzio, presidente dell'Accademia dei Lincei, economista, saggista ed editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera professore, ben trovato. Buonasera a lei, grazie per l'invito. Partiamo proprio da quanto lei ha sostenuto nell'editoriale apparso sul Sole 24 Ore il 29 settembre scorso. Al rischio che l'esito delle elezioni in Germania compromettano il processo di integrazione europea, si è contrapposto il discorso europeista di Macron alla Sorbona. Si potrebbe dire che una Merkel euro indebolita e un Macron euro assertivo mantengono l'asse franco-tedesco con più Francia e meno Germania. È presto per dirlo, perché la Merkel è europeista del fare, mentre per ora Macron è europeista del dire e sovranista nei fatti. Ma l'integrazione nei prossimi 4-5 anni, nei quali Germania, Francia e Italia hanno nuove legislature, non dipende solo dai progetti dei capi di Stato o di governo, ma anche dalle istituzioni dell'Unione Europea e dell'Unione Economica e Monetaria. E infine dalle iniziative creative che nascono e crescono dalla società e dalla cultura, dalla scienza e dall'istruzione, dall'economia e dalla tecnologia. Queste spinte si combinano talvolta virtuosamente con scelte di ministri nazionali e o di commissari europei. Sono iniziative che rientrano nella dottrina Schuman, secondo la quale l'Europa non potrà farsi in una sola volta né sarà costruita tutta insieme. Essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino innanzitutto una solidarietà di fatto. Su questo principio, nel 1950, si varò la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, unendo le produzioni, di memoria bellica, dei sei paesi Francia, Germania Occidentale, Italia, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo. E allora, professor Quadrio Curzio, quale Europa va delineandosi in seguito all'esito delle elezioni tedesche e al nuovo protagonismo in Europa di Emmanuel Macron? E quale ruolo può ritagliarsi il nostro paese in questo percorso? Credo che avremo un periodo piuttosto complesso nel quale l'asse franco-tedesco non sarà certamente rafforzato. La signora Merkel, che mi sono permesso di definire come una europeista del fare, manterrà sicuramente questo proprio atteggiamento, ma nello stesso tempo dovrà fare i conti con una maggioranza che indubbiamente risulta essere piuttosto innovativa, per usare un eufemismo. E in questa maggioranza, se al governo del Ministero delle Finanze andasse un liberale, non potrebbe dare una spinta adeguata a quella idea schumaniana delle realizzazioni di fatto concrete per rafforzare la dinamica della Unione Europea. Temo che se andasse un liberale, si fa già un nome, alle finanze, l'atteggiamento rigorista per sé diventerebbe predominante. Naturalmente sappiamo che la signora Merkel è anche molto abile nel bypassare i suoi ministri quando assumono delle posizioni che sono incompatibili con quella che è una sua, a mio avviso, chiara vocazione europeista, sì. Ma in ogni caso il tempo verrebbe consumato. Quanto a Macron, come appunto mi sono permesso di scrivere, è molto molto europeista negli enunciati, sì. Enunciati peraltro largamente condivisibili, ma poi abbiamo visto che nei fatti tende piuttosto a essere gollista. E infatti io vorrei ascoltare insieme a lei, professore, un breve passaggio proprio del discorso che Macron ha pronunciato il 26 settembre all'Università La Sorbonne, dedicato proprio al tema della difesa comune europea. Nous devons amplifier les travaux engagés pour lutter contre le financement du terrorisme. Dobbiamo incrementare le azioni intraprese per lottare contro il finanziamento del terrorismo, contro la propaganda terrorista su Internet. Abbiamo cominciato a farlo da alcuni anni. Ora dobbiamo rafforzare la nostra cyber security e creare uno spazio comune di sicurezza e di giustizia. Nel campo della difesa, il nostro obiettivo deve essere la capacità di azione autonoma dell'Europa. Il solco di questa autonomia è stato tracciato attraverso un percorso avviato nei mesi scorsi. Nello scorso mese di giugno abbiamo posto le basi di questa Europa della difesa. En juin dernier, nous avons posé les bases de cette Europe de la défense. Professore, allora Macron propone l'istituzione di un esercito comune europeo, ma è fattibile secondo lei? In linea economica sarebbe una scelta assolutamente condivisibile, perché circa largo oggi i paesi della Unione Europea spendono 200 miliardi in difesa e questo comporta una serie di duplicazioni che non aumentano l'efficienza dell'apparato di difesa stesso, ma semplicemente servono ad alimentare una spesa pubblica che potrebbe essere in qualche modo meglio indirizzata, anche eventualmente nella stessa difesa, ma evitando le duplicazioni. Secondo calcoli fatti dal Parlamento europeo, si andrebbero a risparmiare, per usarli poi nella difesa o altrove, varie decine di miliardi di euro laddove la difesa fosse unificata. Quindi io vedrei con grande, grande favore questa scelta, aumenterebbe l'efficienza del sistema difesa e probabilmente renderebbe molto più forte l'Europa anche nel contesto della NATO. In questa visione bisognerebbe non dimenticare neppure la Gran Bretagna e il Regno Unito, che pur uscita dall'Unione Europea, ma nello stesso tempo ha un apparato di difesa assai rispettabile, e quindi bisognerebbe avere un occhio di riguardo anche a questo convitato di pietra. Che poi questo si possa fare o no è tutto da vedere, perché anche qui la Francia mantiene una posizione di supremazia che non credo voglia in qualche modo intaccare. Abbiamo ora un po' di tempo, professore, per soffermarci sulla parte economica, cioè si va, secondo lei, verso una Germania arroccata su posizioni ancora più rigoriste, cioè resta in piedi l'opzione di un ministro unico delle finanze e della creazione di una sorta di fondo monetario europeo che subentri all'attuale meccanismo europeo di stabilità, oppure siamo ancora molto lontani da questi obiettivi, da questi traguardi? Ma in realtà il ventaglio di ipotesi che di tanto in tanto emerge anche da autorevoli personalità è davvero molto grande. Come ha detto lei ben prima, Fondo Monetario Europeo, Ministro delle Finanze, un governo del bilancio europeo incardinato su questo Ministro delle Finanze molto più rigorista, in quanto adesso la Commissione è ritenuta troppo lassista addirittura, sì. O troppo flessibile, sì. Quindi il ventaglio è molto grande. Se io dovessi esprimere una preferenza, io credo che il primo passo dovrebbe essere quello della trasformazione del Fondo Europeo di Stabilità, detto anche Fondo Salva Stati, in qualche entità più dinamica, sia essa rivolta a andare incontro, come lo stesso Macron ha prefigurato, a condizioni di difficoltà eccezionale, non necessariamente economica, ma anche di difficoltà eccezionali eventualmente dovute a catastrofi naturali, ma anche a difficoltà eccezionali come quella dei movimenti migratori, quindi una funzione di sostegno a casi eccezionali, che sarebbe già un passo avanti importante, fino a quello che io ho sempre auspicato e sperato, che questo fondo possa diventare in parte un fondo di assorbimento di titoli di Stato dei paesi componenti l'Eurozona, attualmente in pancia, come si dice in modo molto dialettale, alla Banca Centrale Europea, e in parte come strumento per svolgere politiche di sviluppo. Naturalmente siamo nel campo delle pure ipotesi, e io continuo però a sperare molto anche nel Parlamento europeo, che di tanto in tanto batta un colpo, professore. Esattamente, batta un colpo, e questo colpo speriamo che prima o dopo lasci anche un segno, oltre che essere sonoro, ma sia anche in qualche modo incisivo. E chissà se poi ritornerà in qualche modo nel dibattito pubblico in Europa anche l'ipotesi che lei stessa poi propose sul nostro giornale, quella di provare a istituire una forma, chiamiamola o di Golden Rule o comunque un'esenzione per quanto riguarda gli investimenti dal calcolo del deficit, ma mi sembra che siamo ancora lontani da questo. Siamo ancora lontani, e io credo che l'Europa forse inconsciamente stia anche, se non rinunciando, certamente posponendo a data per ora non prefigurabile quel ruolo di vera potenza civile ed economica, perché tale è dal punto di vista civile. Credo che nessuno possa mettere in discussione che viviamo in un continente di civiltà, con anche il rispetto non solo dei diritti, ma anche la protezione dei ceti meno favoriti, ma nello stesso tempo abbia anche quel ruolo mondiale che a mio avviso rappresenterebbe un fattore anche di maggiore sicurezza nello scenario internazionale, dove le contrapposizioni stanno riemergendo in un modo piuttosto prepotente. Grazie, grazie molto professore per essere stato con noi questa sera. Buona serata. Grazie, grazie a lei. Arrivederci.